24 mattino. Le 8 e 17 minuti, ben ritrovati a 24 mattino per i vostri messaggi 349-238-6666 oppure la mail 24mattino@radio24.it. È il momento di economia. Soldi e dintorni. Ed eccoci qui con Deborah Rosciani, ben ritrovata Deborah. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, oggi parliamo di un tema che basta sfogliare qualsiasi giornale e si legge da qualche giorno, oggi soprattutto, questo termine, Tremonti Bond. Sembra quasi una parolaccia, però in realtà è considerato in tutt'altra maniera in questo momento. Insomma, dalle banche italiane, Alessandro. Esatto, infatti. Tremonti Bond, se ne sente parlare. Oggi cerchiamo di spiegarvi per filo e per segno di che cosa si tratta, Deborah. Esatto, infatti il nostro obiettivo di questa mattina è proprio questo, cercare di aiutare i lettori dei giornali di quest'oggi ad orientarsi in questa materia, visto che è il grande tema economico che oggi imperversa soprattutto sulle pagine di economia. Cosa è successo? Che il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha firmato ieri il provvedimento che dà il via libera alla sottoscrizione da parte del Ministero del Tesoro di obbligazioni emesse dalle banche italiane, appunto i cosiddetti Tremonti Bond, che sono degli strumenti previsti dalle misure anticrisi per tutelare il patrimonio delle banche italiane in questo momento in forte difficoltà, non tanto in difficoltà quanto tutto il sistema internazionale, però ovviamente anche sulle banche italiane la crisi si è abbattuta in maniera pesante. Come funzionano questi strumenti finanziari? Perché le banche hanno bisogno di emettere questi titoli? Questo meccanismo fra banche e tesoro che si sta mettendo in moto fornisce alle famiglie italiane ulteriori garanzie sulla solidità del sistema bancario italiano, ed è possibile che questi strumenti finanziari, che hanno una natura e un'origine particolare perché proprio scaturiscono da un momento di crisi profondissima, finiscano nelle tasche di piccoli risparmiatori? Mamma mia, a quante domande deve rispondere stamattina l'interlocutore a cui abbiamo chiesto di interpretare per noi la normativa che disciplina questo tema, queste obbligazioni per l'appunto, l'avvocato Luca Zitiello, lo studio Zitiello e Associati. Buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a voi. Allora, tra l'altro stamattina sul Sole 24 Ore c'è anche un po' un'indagine su quanto hanno bisogno le banche di di utilizzare questi strumenti. Probabilmente servirà qualche miliardo in più rispetto a quanto il governo aveva preventivato, ma questo è un aspetto che non ci interessa. Ci interessa capire che cosa sono esattamente questi strumenti finanziari, ed è vero, avvocato Zitiello, che è una questione che si vedranno esclusivamente le banche e il Tesoro e il Ministero dell'Economia? Diciamo che questo è parzialmente vero, in quanto questo nuovo provvedimento del governo prevede l'emissione di bond, quindi di obbligazioni, che sono sì in realtà delle obbligazioni, però hanno natura mista, come forse avremo modo di spiegare più avanti. In ogni caso, questi bond verranno sottoscritti dal Tesoro nella misura del 70%, ma il 30%, prevede il provvedimento, deve essere riservato ai privati, di cui peraltro di questo 30% il 20% devono essere soggetti che non siano azionisti delle banche. Ricordiamo che destinatari di questo provvedimento sono le sole banche italiane, ma non tutte, solo quelle che hanno titoli quotati su mercati regolamentati, quindi le quotate in borsa, tanto per intendere. Quindi bisogna dare innanzitutto una definizione di privato, che potrebbero essere soggetti istituzionali ma anche risparmiatori di più modesta entità, come noi per esempio, avvocato? Diciamo che il provvedimento adesso non detta alcun limite, sostanzialmente distinguendo il privato dal pubblico, tant'è che specifica che le regioni, comuni eccetera e altri enti evidentemente non sono privati. Si applicano comunque le regole generali previste dal nostro ordinamento, quindi in funzione delle particolarità dei titoli è evidente che questi potranno essere idonei, adatti soltanto ad alcune categorie di soggetti privati, risparmiatori, in funzione soprattutto della complessità e anche della rischiosità di questi titoli. Non dimentichiamo che sono titoli che hanno in effetti una cedola abbastanza invitante, molto alta, sì. Viene previsto sostanzialmente il tasso dei buoni poliennali del Tesoro a 30 anni più uno spread del 2%, il che ci porta a considerare un 7,5-8,5% per i primi anni di vita di queste obbligazioni. Esattamente. Però è anche vero che ci sono delle regole, una delle quali, è bene ricordarlo subito, gli interessi vengono distribuiti solo in presenza di utili distribuibili da parte della banca. quindi è evidente che se la banca alla fine dell'anno non facesse utili, i portatori di bond non prenderebbero interessi. Quindi cominciamo già a dirlo, qualora si dovesse verificare l'eventualità che questi strumenti finanziari potessero, potranno essere collocati tra i piccoli risparmiatori, cerchiamo intanto di individuare sin da subito il meccanismo anche di distribuzione della cedola, perché è sicuramente molto attraente, ma si verifica solo con presenza di determinate circostanze. Tra l'altro il Ministero del Tesoro ha fatto anche una cosa molto interessante ieri, anche questa è stata abbastanza sottolineata da tutti: si sottoscriverà le obbligazioni delle banche che faranno richiesta, ma a patto che le banche si comportino in un certo modo nei confronti della clientela, avvocato Zitiello. Sì, diciamo che sono dei bond virtuosi o che perlomeno tendono alla virtuosità dei comportamenti. Questo è un provvedimento, questa parte del provvedimento è sicuramente da apprezzare, perché viene prevista la possibilità che sostanzialmente lo Stato finanzi le banche, a condizione che però le banche a loro volta continuino e non cessino l'erogazione di finanziamento nei confronti dei soggetti che maggiormente ne hanno bisogno, in particolare le piccole e medie imprese e i risparmiatori che abbiano contratto un mutuo che vogliano contrarre un mutuo per la prima casa o che abbiano delle difficoltà di pagamento rispetto a questo mutuo. Infatti prevista per esempio la sospensione del mutuo per 12 mesi per disoccupati e cassa integrati. Se la banca per esempio non risponde a questo requisito, non dà questa facoltà ai clienti che sono in difficoltà, Monti dice no, io non ti sottoscrivo l'obbligazione. Esattamente, ed è forse importante ricordare anche che viene prevista la sottoscrizione, l'obbligo di sottoscrizione da parte delle banche di un codice etico che preveda una determinata politica rigorosa nel pagamento delle remunerazioni e delle retribuzioni ai manager delle banche, e sappiamo che questo è un tema di grande attualità. Avvocato Zitiello, un altro aspetto che ritengo molto interessante, che secondo me vale la pena commentare: questa misura, che è quella che sicuramente ha guadagnato più di tutte le altre precedenti l'onore della cronaca finanziaria in questi giorni, ci dà ulteriore sicurezza rispetto alla solidità del sistema bancario italiano, visto che comunque abbiamo già capito che quasi tutte le banche, ed è uno strumento riservato, ricordiamolo, alle banche solo quotate, faranno ricorso appunto a questo strumento di intervento da parte del Tesoro, quindi è, come dire, un ulteriore motivo di serenità per le famiglie italiane, dei clienti di tutte le banche, perché lo siamo tutti d'altronde. Sì, questo è un provvedimento nuovo e diverso dai precedenti, che come sappiamo invece avevano riguardato la possibilità della partecipazione dello Stato all'aumento di capitale o allo scambio di titoli o all'emissione di obbligazioni garantite dallo Stato ma non sottoscritte dallo Stato. Invece in questo caso viene dato un effettivo contributo da parte dello Stato nella sottoscrizione dei titoli, dando così liquidità alle banche e quindi effettivamente avvantaggiando il sistema Italia bancario, che effettivamente in questo momento ha molto bisogno di questo. Ed è anche un provvedimento che dobbiamo considerare in qualche modo transitorio, tant'è vero che nella struttura dei titoli è prevista la facoltà per l'emittente di chiedere il rimborso anticipato dei titoli, cioè sostanzialmente di ritirare i titoli dal mercato nel momento in cui questa esigenza di liquidità passi e le cose, come si spera avvenga presto, tornino alla normalità. Infatti non esiste anche una durata già specificata dal prospetto informativo dei Tremonti Bond, che è stato pubblicato anche questa mattina dal Sole 24 Ore, per cui anche questo ribadisce la natura transitoria delle emissioni, avvocato. Esattamente, è proprio così. Peraltro per dare ulteriori informazioni possiamo dire che questi bond sono davvero particolari, perché prevedono anche la possibilità di essere convertiti a scelta dell'emittente nel rispetto di determinate condizioni e tempi, evidentemente in azioni. Quindi si tratta sostanzialmente di strumenti molto particolari, di strumenti ibridi, che sono stati concepiti proprio per la risoluzione di un problema specifico. Tra l'altro, avvocato Zitiello, mi stanno facendo segnale i miei collaboratori, una cosa che mi sono dimenticata, ma magari ce la facciamo anche a farlo: il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, intervenendo al Forex di Milano questo fine settimana, parlando di questi strumenti, ha anche invitato esplicitamente le banche a sottoscriverli. Abbiamo 40 secondi di tempo per ascoltarlo. L'approccio al rafforzamento patrimoniale delle banche deve essere pragmatico. Le banche devono adottare tutte le misure necessarie e cogliere tutte le occasioni opportune. Alcuni gruppi hanno già cominciato ad agire con la dismissione di attività non essenziali, con la destinazione degli utili al rafforzamento del capitale e con il ricorso al mercato. Saranno presto disponibili, con il perfezionamento dei provvedimenti attuativi, i fondi pubblici previsti dalla legge numero 2 del 2009. Anche in proficuo dialogo con il sistema bancario, gli strumenti offerti dallo Stato sono stati affinati nei margini concessi dalle regole comunitarie. Sono stati affinati al fine di offrire una gamma di strumenti adattabile alle esigenze di ciascuna banca o gruppo. Se i fondi messi a disposizione dallo Stato sono di dimensione adeguata, se le condizioni che accompagnano gli interventi sono ragionevoli e concrete, tese a ottenere l'obiettivo senza ingerenze amministrative né le scelte imprenditoriali, non si esiti ad utilizzarli questi fondi. Infatti le banche sono assolutamente pronte ad utilizzarli. Tra l'altro Draghi li chiama fondi pubblici, forse Tremonti Bond è un'invenzione giornalistica, come sempre colpa nostra. Alessandro, io ringrazio di essere stato con l'avvocato Zitiello e ridò la linea ad Alessandro Milan. Bene, allora Salvadanaio alle 12. Alle 12 parla di un'altra grande fusione che è arrivata in questi giorni, quella fra Alleanza e Generali, quindi un po' di movimento nel settore assicurativo italiano. Cercheremo di capire cosa cambia per piccoli azionisti, consumatori e quant'altro. Le 8 e 33 minuti, uno sguardo alle ultime notizie. Il governo studia nuove regole per regolamentare gli scioperi nel settore dei trasporti. Tra le novità che domani saranno esaminate in Consiglio dei Ministri, il referendum preventivo tra i lavoratori prima di proclamare uno sciopero e l'astensione dal lavoro virtuale. Il disegno di legge sulle intercettazioni sarà cambiato, lo ha detto il ministro alla giustizia Alfano. Due i punti da riscrivere: il divieto di intercettare i sospetti se non in presenza di gravi indizi di colpevolezza, introducendo anche i sufficienti indizi di colpevolezza, e il divieto di rivelare ogni notizia su arresti e inchieste fino alla chiusura. Si discute anche sul carcere previsto per chi pubblica intercettazioni destinate alla distruzione. 5 condanne e una assoluzione, questi verdetti nel processo di appello per il crollo della scuola Iovine di San Giuliano di Puglia 31 ottobre 2002. Nel crollo morirono 27 bambini e una maestra. In primo grado gli imputati, tra questi l'ex sindaco, tecnici comunali e costruttori, erano stati assolti. Infine il calcio, la Juventus perde 1-0 a Londra contro il Chelsea nell'andata degli ottavi di Champions League, gol per i londinesi di Drogba. Stasera tocca la Coppa UEFA con il ritorno dei sedicesimi. Alle 18 si apre con la Sampdoria in Ucraina contro il Metalist. Si tenta di recuperare la sconfitta casalinga per 1-0. In serata Milan Werder Brema andata 1-1, Udinese Lech Poznan andata 2-2 e Ajax Fiorentina andata 1-0 per gli olandesi. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, oggi dedicato al disegno di legge Brunetta, quello cosiddetto anti-fannulloni, che da ieri è legge dello Stato. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. La riforma Brunetta sul pubblico impiego contiene diverse novità, novità positive. Vedremo poi se cambierà veramente il rapporto fra burocrazia e cittadini. Gli statali avranno una pagella con la quale saranno decisi i premi di produttività per chi farà bene o le sanzioni fino al licenziamento per i cosiddetti fannulloni. I cittadini potranno sapere attraverso la rete le valutazioni sulla carriera dei dipendenti pubblici. Chi starà uno sportello o sarà a contatto con il pubblico sarà sempre riconoscibile attraverso un cartellino identificativo. Né più né meno quello che accade già in molti uffici o luoghi di lavoro privati, dove la valutazione del personale è pratica quotidiana. Forse in questi mesi c'è stata troppa enfasi sui fannulloni, che esistono anche nel privato, è bene ricordarlo, e poca attenzione ai tanti che lavorano seriamente. La riforma Brunetta non dà tregua ai primi, ma si propone di premiare anche i secondi. Per l'opposizione in Parlamento un'occasione persa, con la decisione di essere assenti in aula ieri al Senato al voto finale di un provvedimento contro l'assenteismo. Buona giornata. Grazie, buona giornata direttore. A domani ovviamente alla stessa ora. Sono le 8 e 36 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Abbiamo sentito anche nelle notizie poco fa, ma anche in GR24, ieri c'è stata la sentenza di appello per il crollo della scuola Iovine di San Giuliano di Puglia in Molise, 31 ottobre 2002, come non ricordarla, il terremoto terribile, e la scuola Iovine si sbriciolò. E quel giorno rimasero sotto uccisi 27 bambini e una maestra. Fu l'unico edificio quello a sbriciolarsi, a crollare. Ieri la condanna in appello, diverse condanne, una sentenza che ha ribaltato la sentenza di primo grado, tutti assolti, ricordate anche con scene di grande rabbia da parte dei parenti, genitori delle povere vittime. Io voglio salutare Antonio Morelli, buongiorno. Buongiorno a lei. Morelli presiede tra l'altro la Onlus, che è nata, che raggruppa i genitori dei bambini vittime a San Giuliano di Puglia. Lei perse chi, Morelli? Io ho perso una bimba di 6 anni che frequentò quella scuola 45 giorni, era nella prima elementare, classe 96, dove non c'è più un bambino a San Giuliano. Lei anche ieri, come nei vari procedimenti, come nella sentenza di primo grado di cui parleremo, era lì ad ascoltare il pronunciamento della Corte d'Appello. Credo che le parole più giuste che siano state dette da lei e da altri siano: ora giustizia è fatta. È questa la sensazione che avete oggi? Beh, è chiaro che abbiamo chiesto ed ottenuto giustizia. Abbiamo chiesto verità e giustizia perché ci sembrava che quella sentenza di primo grado non corrispondesse ai fatti emersi nel dibattimento, nel processo di primo grado. Oggi questa sentenza riscrive totalmente la verità storica di quella strage dei bambini. Non era possibile pensare che un solo edificio, quella scuola, fosse crollato per quel terremoto, perché questo era sostanzialmente scritto nella prima sentenza, quella d'appello, che la causa della morte di queste persone, dei 27 bambini e della maestra, era stata il terremoto, non tanto il fatto che la scuola fosse stata costruita secondo nessun criterio di legalità. Questa sentenza ribalta questo principio sostanzialmente. Chiara che, ma nessuno poteva credere che esiste in natura un terremoto così diabolico che va a colpire, come è stata la tesi dei difensori, degli imputati, un terremoto così diabolico, dicevo, che va a colpire solo una parte della scuola, un'ala della scuola, guarda caso quell'ala che era stata sopraelevata prima, qualche anno prima. E allora da qui era inevitabile che la sentenza doveva essere riscritta e ribaltata. È difficile avere giustizia in Italia, guardi. Io lo dico perché abbiamo vissuto sulla nostra pelle che cosa vuol dire avere a che fare con la giustizia in Italia. Io ricordo quando c'era un mugnaio nel secolo trascorso che disse: contro i potenti troverò un giudice a Berlino. Noi abbiamo trovato dei veri giudici a Campobasso. Una corte che è stata molto attenta e che non si è fatto coinvolgere dal richiamo delle sirene o dagli incantatori di serpenti. Una corte che veramente ha fatto giustizia. Guardi, lei mi ha rubato senza saperlo le parole. Io avrei voluto proprio iniziare così, forse. Esiste un giudice anche a Campobasso, come esiste un giudice a Berlino, fu la famosa esclamazione. Io tra l'altro voglio salutare Carlo Vulpio del Corriere della Sera. Buongiorno Carlo. Carlo Vulpio ha seguito dal primo giorno questa vicenda, ne ha anche scritto molto bene, e su questo ti vorrei fare un paio di domande. Nel libro Roba Nostra, che insomma hai scritto, edito dal Saggiatore, storia di soldi, politica, giustizia nel sistema del malaffare, ne hai scritto perché, visto che i simboli sono importanti, quando, cosa successe? È una cosa magari insignificante ma fortemente simbolica. Quando ci fu il pronunciamento il 13 luglio 2007 della sentenza di primo grado, quella di assoluzione, successe un fatto incredibile, quasi un segno del destino. Sì, lo ricordiamo tutti, mentre il giudice di primo grado leggeva la sentenza in questa aula improvvisata come aula di giustizia, perché il processo si celebrò nell'unico albergo cittadino lì a Larino che poteva consentire appunto il rito processuale. Dalla parete alle spalle del giudice si staccò il cartello con su scritto la legge uguale per tutti, e cartello che cadde per terra proprio mentre si leggeva la sentenza. Questo, diciamo, per chi crede o pensi che i segni abbiano un valore sicuramente una cosa fortemente simbolica che lasciò ammutoliti. Senti, com'è possibile che ci sia stato questo ribaltamento? Poi ci sarà la Cassazione, perché attenzione, se sappiamo che ci sono 3 gradi di giudizio, certo. E già i difensori delle persone condannate ieri hanno detto ricorreremo in Cassazione. Com'è possibile questo ribaltamento con le condanne in appello? Ma intanto voglio dire, c'è da sconsiderare che in primo grado il giudice che è giudicato di una cosa così delicata, così grave, era un giudice monocratico. In secondo grado i giudici sono in collegio 3 giudici, quindi anche questo deve far pensare che probabilmente il processo sia stato esaminato in maniera più approfondita. Del resto però non è un mistero che delle sentenze vengano pronunciate dai giudici che danno valutazioni diverse dei fatti, e quella sentenza di primo grado, io stesso scrissi, ma lo stesso procuratore disse che era una sentenza non solo sbagliata ma scandalosa. Questo l'ho detto allora, lo ripeto oggi, questo è valso al procuratore e a me che l'ho scritto nel mio giornale una querela da parte del giudice di primo grado. Evidentemente c'è della gente in questo paese che è convinta che le sentenze, come ogni altro provvedimento, non si possa criticare, non si possa esaminare. Ma togliendo di mezzo questo discorso, c'è un discorso più importante che io ho sviluppato nel mio libro, ma che tutti a Campobasso e nel Molise conoscono, ed è il discorso dei soldi. Il discorso dei soldi suona così: se quella tragedia fosse stata addebitata esclusivamente al terremoto, sarebbero piovuti, come sono piovuti in gran parte, una montagna di una valanga di soldi pubblici per una ricostruzione che non c'è, che non è da fare, che non esiste. Certo. Il partito trasversale della ricostruzione gioì all'indomani di quella sentenza, il giorno dopo quella sentenza. Oggi il partito trasversale della ricostruzione è arrabbiato. Tra l'altro io voglio ricordare, le accuse erano omicidio, disastro, lesioni colpose, concorso in falso ideologico, e le condanne sono state 6 anni e 10 mesi per ciascuno di Giuseppe La Serra, progettista e direttore dei lavori, Mario Marinaro, dipendente comunale responsabile della pratica per sopraelevazione della scuola, perché lì fu giustificato, la sopraelevazione fu fatta, era troppo pesante e quindi portò al crollo. 5 anni per gli imprenditori Carmine Abiuso e Giovanni Martino, 2 anni e 11 mesi l'allora sindaco di San Giuliano, Antonio Borrelli. A questo proposito, Morelli, l'allora sindaco oggi fa interviste in cui dice, con molto dolore, anche comprensibile, perché l'allora sindaco perse anche lui una figlia in quel crollo. E ora si trova con una condanna. Dice: pensate che io possa essere l'assassino di mia figlia? Ecco, ci si intreccia anche questa storia di grande dolore, insomma, Morelli, in quel crollo. Guardi, posso avere rispetto per il dolore umano, ma non quello del padre, perché il papà, pur come forse pochi sanno, non si è costituito parte civile contro chi secondo lui è responsabile. E perché non si è costituita parte civile se lui ritiene che sua figlia è stata uccisa da questi signori? E poi voglio ricordare che gli imputati erano collegati fra loro, perché lui ha permesso l'apertura di quella scuola e quindi che i bambini e anche i suoi figli entrassero in quella scuola senza che ci fosse stato un collaudo statico. Era lui che doveva chiedere il collaudo statico. Ma al di là di questo, noi abbiamo chiesto e ottenuto giustizia per 27 bambini, perché quella bambina, come tutti i bambini del mondo, avevano il diritto alla vita, il diritto di gioire, di giocare, di crescere nella più totale sicurezza in una scuola. Questo purtroppo non è dipeso da noi, ma è dipeso da altre persone. Io mi fermo qui, ovviamente, ripeto, ci sarà anche la Cassazione, saremo a seguire questo processo. Intanto raccogliamo, insomma, questa sua estrema dignità che ha sempre dimostrato in questi anni, portando avanti quelli che sono i diritti sacrosanti dei vostri bambini che non ci sono più. E io la ringrazio, Antonio Morelli, che presiede, ripeto, anche la ONLUS Vittime della Scuola, l'associazione di San Giuliano che è nata dopo quella vicenda. Tra l'altro c'è il sito www.vittimedellascuola.it, così come ringrazio Carlo Vulpio del Corriere della Sera. Le 8:49 minuti, voi ricorderete che esiste un referendum, se ne è parlato tantissimo l'anno scorso, il referendum per cambiare, che si propone di cambiare l'attuale legge elettorale, quella che lo stesso autore, insomma ormai è storia, Calderoli definì una porcata. Da lì allora il professor Sartori l'ha ribattezzata il Porcellum. Professor Giovanni Guzzetta, buongiorno. Buongiorno a voi. Presidente del comitato promotore del referendum elettorale. Che fine ha fatto sto referendum? C'è grossa rivolta, se possiamo dire così, da parte vostra. Ieri abbiamo sentito anche Mario Segni, era ospite da Cruciani alla Zanzara, a dire stanno cercando di boicottare il referendum, di farlo saltare. In che senso? Ma guardi, il referendum si deve fare perché è un obbligo costituzionale, perché 820.000 cittadini l'hanno richiesto. E c'è un problema politico, c'è un partito, la Lega Nord, nella sua dirigenza, perché molti militanti sono d'accordo invece con noi, che non lo vuole assolutamente. E quindi l'intenzione sembra essere quella di fissarlo in una data in cui è probabile che i cittadini avranno difficoltà a recarsi alle urne. Perché sappiamo che c'è l'Election Day, che è stato fissato per il 7 giugno, però al momento il referendum non è compreso in questo Election Day. Esatto, lei ha sintetizzato benissimo. Noi chiediamo una cosa molto semplice: siccome l'Election Day viene fatto per risparmiare soldi, molti soldi dei contribuenti, e per evitare che i cittadini si debbano recare 3 domeniche di fila a votare, noi chiediamo che il referendum sia accorpato alle europee e alle amministrative. È molto semplice. Che sia fatto il 7 giugno, certo. Esatto, il 7 giugno. Poiché però c'è questo partito che non lo vuole assolutamente, stanno cercando in tutti i modi di evitare questa soluzione, che è la più razionale e la più semplice. Ah, lei dice, è proprio una battaglia che la Lega vi sta facendo, insomma, identifica il nemico. Sono dichiarazioni dei dirigenti della Lega, a cominciare dallo stesso Calderoli, che ha detto molto chiaramente che su questo tema si rischia la crisi di governo. È molto semplice. E la cosa drammatica è che per seguire questo orientamento si rischia di stabilire, di buttare dalla finestra 400 milioni di euro dei cittadini. E questa è una stima che ha fatto la voce.info, che sapete è un sito di economisti, dice sostanzialmente questo sarebbe l'inghippo: si vota il 7 giugno per l'Election Day, poi si vota il 14 per i ballottaggi. Se si mettesse il 14 il referendum, vorrebbe dire che si andrebbe a votare 3 settimane di seguito. Sappiamo che gli italiani, quando si tratta di andare a votare una volta, due volte, addirittura 3 domeniche di seguito, ecco che sarebbe un modo per far naufragare il quorum. I cittadini andrebbero al mare piuttosto, almeno una delle 3 settimane. Noi diciamo, qualcuno ci deve spiegare perché bisogna abusare della pazienza degli italiani e soprattutto buttare 400 milioni di euro dei contribuenti per seguire questa linea, che è una linea folle. Questa stima della voce.info è per dire: se non accorpiamo il referendum al 7 giugno e facciamo una votazione separata il 14, bisogna rimettere i seggi, ripagare gli scrutatori, e quindi si arriva a queste cifre tra dirette e indirette di 400 milioni di euro. L'ho letto anch'io con una certa inquietudine, insomma, di eventuali sprechi se non si accorpano i referendum. Soprattutto per un governo che si propone giustamente e condivisibilmente di combattere gli sprechi, insomma, con quei 400 milioni di euro si potrebbero per esempio pagare a tutti gli studenti delle scuole medie, quindi a tutte le famiglie che hanno figli nelle scuole medie, i libri scolastici gratis, oppure si potrebbero comprare 5.000 auto attrezzate della polizia. Insomma, ci sono dei problemi urgenti del paese. Francamente, buttare soldi credo che non abbia voglia nessuno, soprattutto quegli italiani che si vedono in difficoltà economiche gravi a causa di questa crisi. E che pensate di fare? Perché, professor Guzzetta, il governo può legittimamente decidere di mettere il 14, cioè non metterlo nell'Election Day, il referendum, voglio dire. Certo, infatti il problema è un problema politico, non di legittimità. legittimità, noi non contestiamo la legittimità, contestiamo la scelta politica, e per questo adesso inizieremo una campagna a cominciare da una richiesta al ministro Maroni, il quale in modo è leghista, in modo condivisibile il ministro Maroni ha proposto l'election day proprio per quelle ragioni, non evitare sprechi ed evitare di abusare della pazienza. Il ministro dovrebbe spiegare non solo a noi ma agli italiani per quale motivo questa soluzione non può valere anche per il referendum, che ripeto non è un vezzo, è un istituto costituzionale per il quale sono state raccolte le firme, per il quale si è pronunciata la Corte Costituzionale, insomma è un dovere costituzionale consentire agli italiani di votare con serenità e non abusare della loro stanchezza e della loro pazienza. Però professore, voi vi rivolgete al ministro Maroni, insomma titolare del Viminale, però lei dice è la Lega che non ci vuole, è Maroni della Lega. Però io mi auguro che Maroni faccia prevalere il suo ruolo istituzionale sugli interessi di partito. Maroni giustamente si lamenta, come tanti altri, della scarse risorse per le forze di polizia. Ripeto, con quei 400 milioni di euro si possono fare tante cose per rafforzare la sicurezza, perché non si può fare la retorica della sicurezza. Se la sicurezza, come anch'io penso, è un problema di questo paese, bisogna affrontarlo in tutti i modi possibili e non perdere un'occasione così. Insomma, professore, 10 secondi, non è bastata la lotta, i banchetti, la raccolta di firme, la lotta per l'ammissibilità, adesso c'è la lotta per vedere che il referendum venga fissato in un giorno che preferite voi rispetto a quello che non è preferito. Una lotta continua, insomma. Beh, in 10 secondi, questo referendum è fatto contro quella politica oligarchica che si sta sempre più allontanando dai cittadini. È chiaro che la politica cerchi di difendersi, ma noi sapevamo che la lotta era difficile, continueremo a farla fino alla fine per non avere, come dire, nessuna responsabilità. Bene, io la ringrazio. Giovanni Guzzetta presiede il comitato promotore del referendum elettorali, grazie per essere stato con noi. Con lei concludo, ci fermiamo qui. Tra poco Giuliano Ferrara con la proposta di un Concilio Vaticano III fatta da Vito Mancuso, che sarà ospite di Giuliano Ferrara tra gli altri, e noi ci aggiorniamo a domattina 24 mattino e radio24.it per scriverci.